Ogni anno in tutta Europa, dal 16 al 22, appunto, ci sono iniziative che coinvolgono tutte le città europee. Il tema, diciamo, è un tema generico, cioè dobbiamo migliorare le nostre connessioni. È quello che stiamo cercando di fare con l'implementazione della rete ciclabile bicipolitana, che a livello metropolitano è passata da 0 a 400 km negli ultimi anni, e dobbiamo però realizzare gli altri 600. E anche su Bologna si sta realizzando tutta la rete progettata nel Biciplan. Ma la mobilità ciclistica è solo uno dei temi della settimana europea, perché appunto si parla di mobilità sostenibile, quindi parleremo anche di tram, di spostarsi a piedi. Spesso non ci ricordiamo che più del 20% degli spostamenti a Bologna avvengono a piedi, cioè quindi la pedonalità è una risorsa su cui dobbiamo investire, migliorando lo spazio pubblico, migliorando la qualità dei nostri percorsi pedonali ed educandoci sempre di più a lasciare la macchina a casa, specialmente ora che abbiamo un caro energia che quasi lo impone. Per cui pensiamo che sia il momento giusto per invitare tutte le cittadine e i cittadini a scoprire come si possono muovere meglio. Infatti vedo ad esempio che venerdì 16 settembre ci sarà anche il Giretto d'Italia 2022, che serve per promuovere gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. Sì, perché sappiamo che la maggioranza del nostro bisogno di mobilità, appunto, è andare al lavoro, andare a scuola, accompagnare figli e figli a scuola. Quindi anche per questo oggi il Comune ha lanciato gli incentivi per l'acquisto di bici elettriche e cargo bike elettriche, appunto per portare i bambini. Ci sono 500 euro per l'acquisto della bici elettrica e 1000 euro per l'acquisto della cargo bike, un'occasione per accedere a un mezzo che, avendo un costo superiore a una normale bicicletta, alle volte lascia un po', diciamo, perplessi. Quindi noi cerchiamo di incoraggiare l'acquisto a un mezzo che può, diciamo, sostituire, per esempio, in una famiglia una seconda auto. E diamo anche modo di provarlo, perché ci sono tante pedalate, passeggiate all'interno del programma della settimana europea, che trovate facilmente anche su internet, sul sito di Fondazione Innovazione Urbana, digitando Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Bologna, che culminano queste pedalate nella grande pedalata di sabato pomeriggio, sabato 17, in piazza Lucio Dalla. Alle 15 ci sarà il Bike Pride, e quindi tutte le persone sono invitate a fare questo giro nelle strade chiuse al traffico, quindi totalmente sicuro anche per bimbi e bimbe piccoli. Mercoledì 21 settembre c'è un'altra iniziativa che riguarda la mobilità indipendente di bambini e bambine in città, e sarà mercoledì 21 settembre alle 17:30. Sì, è uno dei convegni della settimana europea incentrato sul tema della mobilità dei bambini. Infatti abbiamo un progetto dove stanno nascendo tanti nuovi bicibus e pedibus, cioè gruppi organizzati per accompagnare i bambini la mattina a scuola a piedi. Quindi è un tema molto attuale, di cui si è occupata facendo scuola la consulta per una città amica delle bambine e delle adolescenti, Cinnica, che infatti, insomma, sarà rappresentata da Agathe Gillet, insieme a altre professioniste del tema dell'autonomia, perché in Italia solo il 7% dei bambini va a scuola in autonomia a piedi o in bicicletta, mentre la maggioranza vengono accompagnati, e questo è un tema di salute e di educazione delle bambine, perché andare a scuola da soli vuol dire acquisire capacità fisiche, fiducia in se stesso, fare moto. Sappiamo che il problema dell'obesità infantile è un problema molto grave in Italia, quindi credo che sia importante investire su questo tema, anche perché la città del futuro è già adesso, quindi noi dobbiamo rendere possibile viverla già alle nostre figlie e figli. Ecco, giovedì 22 settembre, il giorno conclusivo, i due eventi conclusivi saranno particolarmente nutriti, interessanti e accattivanti: un convegno internazionale col titolo La mobilità che mobilita. Sì, abbiamo deciso di invitare due ospiti stranieri, l'assessore alla mobilità della città di Ghent in Belgio e il sindaco di Münster in Germania, due città che hanno rivoluzionato la loro mobilità con il tram, con le pedonalizzazioni, con le reti ciclabili, con una nuova idea di spazio pubblico. Stiamo facendo un processo simile, quindi pensiamo che sia importante capire come hanno fatto nelle altre città, prendere esempio, ispirazione, e vedere soprattutto che è possibile farlo con piena soddisfazione di tutti. Sono città in cui è bello muoversi, io le ho visitate, e la gente va a lavorare con il sorriso, quindi speriamo di fare lo stesso percorso. E quindi giovedì 22 alle 19 in piazza Lucio Dalla li incontriamo per parlare con loro. Ci sarà anche la traduzione simultanea, ovviamente, per chi non parla inglese, e dopo il convegno ci sarà il concerto con il palco a pedali alimentato da biciclette che producono energia e alimentano l'energia necessaria per questo bellissimo concerto dei Tête de Bois, appunto sempre in piazza Lucio Dalla. Io penso che in questo momento di crisi energetica dobbiamo veramente rivedere il modo in cui consumiamo l'energia, anche quella per spostarci, e accorgerci che potersi spostare in autonomia, ribadisco, soprattutto anche a piedi per i piccoli spostamenti, è possibile con il trasporto pubblico, con il tram, con l'implementazione del servizio ferroviario metropolitano. metropolitano invece rispondiamo a quegli spostamenti chiaramente più lunghi, che però appunto dovrebbero venire in modo più sostenibile possibile, anche perché hanno un costo ad oggi insostenibile per le famiglie.